Bella raga! Buonasera a tutti! Pronti? Lunedì? Beh, io Marzi sempre pronta! Lo so! Bene. Prontissimo! Ok! Hai schizzato Rec, Fede? Certo, Marga, non ti preoccupare! Ok, pronti là! Vai! Ma con ora arriva il lunedì e ti parliamo da 2 anni! Cara amica mia, promettimi che poi ci ascolti ancora. Se qualcuno poi non è lì con te, non è lì con te, tranquillo, ci siamo noi tre. E dai, sono un'ora, un quarto a Milano Sud, ma poi parliamo d'altro fuori dal comune. Insomma, urlato totalmente. Beh, cioè un rientro col botto, un rientro con sigla. Come mai siamo così luppati? Non lo so. Siamo alti perché la nostra sigla si sentiva bassa perché era timida, perché era la prima volta, quindi si sentiva timida. Bentornati a tutti, ciao! Eccoci. Nuovo anno, nuovi noi, nuova sigla. Non so se si è sentita, noi abbiamo riso molto, ci siamo anche molto impegnati per farla. Quindi è stato bello presentarvela. Magari la prossima volta sarà più alta, chissà. Tutto il nostro spirito creativo, ma soprattutto tutto il nostro spirito di efficienza, perché vi vorrei dire che questo prodotto della discografia, questo pezzo di storia della radio italiana, è stato fatto in 3 ore. Vabbè, Marzi è partita in quinta. Comunque, in tutto questo abbiamo saltato una delle nostre cose base di inizio puntata. Perché la sigla c'è un po' agitata, c'è un po' scioccata. Vabbè, quindi forse lo faccio adesso, tanto okay, per riprendere delle buone abitudini. Va bene, bentornati. Volta. Con riferimento a un fatto singolo, in quanto si pensa che possa ripetersi o no. Si è detto una volta per sempre, mi piacerebbe provare per una volta sola. Eccoci, siamo tornati, ecco, con le grandi intro della Marghe. Grandi emozioni. Ciao a tutti. Fuori dal comune, puntata 1, stagione 2. Incredibile ma vero, ma siamo ancora noi, Fede, Marghe e Marzi. Sempre noi a tenervi compagnia per questa ora e mezza, ore 45, 2 ore, ora vediamo come va. E niente, siamo fuori dal comune, c'è sicuramente un sacco di gente che ci ha ascoltato, almeno dei 4 che ci stanno ascoltando, almeno 3 su 4 ci hanno già ascoltato, sentiti? Ma farei fare gli onori di casa, per chi non ci ha mai sentito, della nostra presentazione a Marzi, che è l'esperta della presentazione di Fuori dal Comune. Quindi vai Marzi, spiega a tutti chi non ci ha mai sentito cosa facciamo a Fuori dal Comune. Ok, allora, bentrovati a tutti i vecchi ascoltatori, buongiorno, anzi buonasera ai nuovi ascoltatori. Noi siamo Fuori dal Comune, il nuovo programma, che non è più nuovo perché no, è passato un anno, quindi il programma, non direi storico, ma direi il programma in crescita. Il nuovo secondo programma di Radio ZAM o di Radio ZAM, ora non abbiamo capito esattamente come si chiama la nostra radio, ma una delle due. Comunque siamo qui, trasmettiamo da Milano Sud, da Representing ZAM, appunto, siamo veramente a Milano Sud. Ma ricordiamo le coordinate. Le coordinate sono per oggi, e solo per oggi, poche coordinate. Oggi poche coordinate. Abbiamo una coordinata semplice per parlare con noi, per appunto condividerci le vostre serate, le vostre impressioni, le vostre osservazioni, i vostri sentimenti, i vostri segreti. Tutto quello che volete condividere. Dite prima segreto, se sì, è un segreto, così non lo sappiamo, leggiamo, non lo leggiamo. Anonimizziamo il dato. Allora potete scriverci su Instagram a Fuori dal Comune stava preso, perché stava veramente preso. E niente, vi rispondiamo. E basta, vi rispondiamo, vediamo le vostre stories. Purtroppo di solito abbiamo anche un canale diretto chat, Telegram. Ma non può essere sempre buona la prima. Esatto. E questo è un ottimo gancio per, come dire, presentare il tema della nostra seconda prima puntata, in fondo, no? Esatto, quindi questo è il tema, proprio il gancio giusto per dirvi quanto siamo stati creativi quest'anno, in questa nuova stagione. Abbiamo deciso, oh raga, cosa parliamo per la prima puntata della seconda stagione? Parliamo di ricominciare? No. Sì. No, seconda volta. Esatto, abbiamo detto, parliamo. Parliamo. Ok, il gancio non c'era, il storytelling, scusami. Marghe e Marzi non si erano messe d'accordo. Una stava facendo una gag e l'ha detto, no, ma raga, mi hanno detto un'altra, era un altro il titolo. Esatto, parliamo di seconde volte, finita qua. Scusa, non volevo ammazzare il tuo entusiasmo. Vabbè, seconde volte e... Un sacco di tipologie di seconde volte. Un sacco di tipologie di seconde volte, perché questa è la nostra seconda volta, la nostra seconda stagione, non la seconda volta in radio, perché abbiamo fatto 9 meravigliose puntate, che by the way, 9? Forse 10. Che by the way potete ancora sentire in podcast nel sito di Radio ZAM. E ve li consiglio comunque anche per conoscerci, per chi di voi è nuovo. Magari, insomma, ognuno di noi ha delle caratteristiche fondamentali che fanno di questo programma il programma cult del lunedì sera, anche per questo mese e anche per questa stagione e anche per questo autunno. Dico solo una cosa, Marzi, dalla chat privata mia dicono: la prossima volta magari Marzia non fatela bere. È partita, Marzia, è partita. Non ha questa bevuto. Seconda volta è col botto. Non ha bevuto. Vabbè, quindi come al solito un tema snocciolato in diversi sottotemi dove chiederemo l'aiuto vostro, quindi pareri, informazioni, condivisione di vostre esperienze sul tema la seconda volta. Io a questo punto metterei la traccia di apertura. È tipo la posta del cuore. Scriveteci su Instagram, che abbiamo i nostri social media manager pronti a rispondere. Per chi non... Cioè, ovviamente questo pezzo, come sempre per i nuovi ascoltatori, tutti i pezzi della serata sono ovviamente collegati. Il primo pezzo di apertura è molto collegato. Ma raga, oggi comunque non ce la facciamo. È molto collegato, ma non al tema che abbiamo scelto per la musica. Posso fare una piccola nota? Di solito siamo più bravi, perdonateci, siamo un po' arrugginiti forse da questo ricordo delle vacanze. No, sono in rito, forse dovevamo chiamarla al rientro. Rientro. Vabbè, la prossima. No, stavi dicendo, però ogni traccia musicale ha un senso. Esatto, ha un senso, il senso ce l'ha per noi, non per forza ce l'ha per tutti. Questa volta il senso di questo pezzo qua ce l'ha perché... Facciamolo scoprire. Abbiamo rubato una cheat. Sì. Vediamo se ci arrivate. Quindi con I'm the One di DJ Khaled feat. Justin Bieber e altre persone, vi lasciamo con I'm the One. The truth, the money never lie, no, I'm the one, yeah, I'm the one, early morning in the dark, know you wanna ride now, I'm the one, yeah, hear you sick of all those other imitators, don't let the only real one intimidate ya, see you watching, don't run out of time now. Truth, the money never lie, no, I'm the one, yeah, I'm the one, early morning in the dark, know you wanna ride now, I'm the one, yeah, hear you sick of all those other imitators, don't let the only real one intimidate ya, see you watching, don't run out of time now. That new Chanel, she liked the price, she see the ice and make her coochie melt. When I met her in the club, I asked her who she felt, then she went and put that booty on that Gucci belt. We don't got no label. She say she want bottles. She ain't got no table. She don't got no bed frame. She don't got no tables. We just watching Netflix. She ain't got no cable. Okay, though. Plug, plug, plug. I'm the plug for her. She want a nigga that pull her hair and hold the door for her. Maybe that's only me. But she don't care with me. Okay, yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, no, you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Looking for the one, what bitch you looking at the one? I'm the best yet, and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body, that's for any and everybody. Oh my god, she hit me up all day, get no response. Bitch, you blow my heart, that's like turning gold to bronze. Roll my eyes, and when she on the molly, she a zombie. She think we clotting Bonnie, but it's more like Whitney Bobby, god forgive me. Don't you ever listen, I'm a legend. Straight up out the crescent, fly your bait down for the essence. For the record, I know Colin when that ball was spinning records. Move like game winning record, I'm just flexing on my asses. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Don't you know, girl? Don't you know, girl? I am the one for you. I'm the one. Yeah, I'm the one. Another one. Capito il nesso? Incredibile. Perché abbiamo scelto DJ Khaled. Chi ancora non ci è arrivato ce lo scriva però. Sì, vogliamo saperlo, per piacere. Per piacere. Sento una voce veramente suadente. Ma vedi che di nuovo io sento il robotico. Vabbè, ragazzi, oggi abbiamo dei problemi tecnici, ma cercheremo di... portare a come casa. Si dice? The show must go on. Quindi andiamo, anche se siamo un po' robotici. Sì, non sono sicura che a casa ci sentiamo robotici, no. Ma questo è, e questo ci teniamo, direi che... Condividiamo questa sensazione di disagio, comunque. Esatto, accetto e vado avanti. Mi sento un robot. Ok, perfetto, allora, seconde volte per noi vuol dire, come insomma dicevamo poco fa, tante cose può voler dire, ci sono tante sfaccettature di seconde volte, ma vorremmo parlare adesso di una seconda volta molto, diciamo, specifica e speciale, che è quella del secondo lavoro. Ne vorremmo parlare perché personalmente io mai ho avuto un secondo lavoro nella vita. Quindi ne parla proprio Marzia di, esatto, questa quindi cosa. Quindi io sto zitta. Adesso okay. sento le opinioni dei miei amici e dico, raga. Ma cosa intendiamo per secondo lavoro? Per secondo dire? Lavoro vuol dire, cioè, secondo lavoro come, e farei un parallelismo sinceramente. Proviamo. Come la, anzi no. Parliamo prima di questo. Quindi, secondo lavoro per me è importante perché tu esci dall'università, eccetera, inizi il primo lavoro, ci metti, diciamo, togliamo magari lo stage di 3 mesi durante l'università, però il primo vero contratto. Ok. Ok, poi a un certo punto decidi di fare un salto di carriera, decidi di cambiare per n motivi, la fidanzata, la città, lo stipendio, l'azienda fallisce. Tutte le cose. N motivi. Decidi di cambiare lavoro e immagino che con questo cambio di lavoro ci siano una serie di emozioni che tu ti porti dietro e un bagaglio di esperienze che tu ricondividi nella tua seconda volta. Oh, pur non avendo mai cambiato lavoro, sembri parecchio esperta. Hai letto dei libri come cambiare la prima volta lavoro? Esatto, e poi non ce l'ho mai fatta. No, non cambiare, non l'hanno mai convinta, secondo me. No, esatto, non mi hanno mai convinta. Allora, questa sarà un'intervista. Ok, va bene, okay, vai. Marzia intervista Marghe Fede. Ok, allora, com'è stato il primo... giorno di lavoro nel vostro secondo lavoro. Vado io? Vadi, vadi. Allora, il mio lo dichiarerò drammatico. Perché volevi tornare al vecchio lavoro? Sì, sì, perché ho detto, oh fuck, che cazzo ho fatto? Questa è stata più o meno la prima espressione. Anche perché, senza fare nomi, cognomi e soprattutto brand, primo giorno di lavoro mi dicono, andiamo sullo shooting del cliente, beep, ok? Quindi arrivo su questo shooting, dovevano fare un video spot con dentro anche Mischilla, quindi io ero anche gasata all'inizio. Dopodiché nel giro di 25 minuti la scena è stata tipo referente del brand per cui io lavoravo, referente capo che lancia addosso a referente sottoposto un prodotto molto pesante, che peraltro era anche il prodotto del brand. Quindi è come se avesse scagliato la sua stessa azienda contro il suo sottoposto. Ottimo. Questo perché aveva trovato Moreno invece di Emischilla. Esatto, tipo, ma quello non è Emischilla. Sì, avevamo solo questo. Comunque avevo rimosso Moreno dalla mia vita. Tra l'altro è vero, che fine ha fatto? Io purtroppo no. Quindi diciamo che riassumendo, ero carica di aspettative perché poi la mia... Ti sei vestita tutta figa, hai detto, sì, ho detto lavoro nuovo, oggi carriera nuova, sì. Marghe professional nuova. Sì. Okay. Sì, pensavo di aver fatto il salto, infatti invece ho fatto il salto nella merda praticamente. Ok, quindi sei subito pentita. Riassumendo, mi sono pentita del mio secondo primo lavoro. Ok, benissimo, può capitare, credo. Fede? Ah, io tutto bene, ho seguito praticamente il mio l'apatia. I miei primi... Due cambi di lavoro e mezzo sono stati dovuti ad acquisizioni, quindi per società dove lavoravo che venivano comprate da società più grandi. Quindi ok, quindi non li consideriamo. Non li consideriamo. Il primo cambio di lavoro, la domanda era il primo giorno. Primo giorno. Primo giorno molto bene, è stato tutto bello, sono arrivato, ero gasatissimo, sono arrivato... Dica. Però scusami, se sono sempre stati tutti cambi, però... rimanendo sempre le stesse persone ma acquisite, no, che cazzo quel... di secondo primo giorno no, quelli li abbiamo messi da parte. Scusate. Questo è proprio vero dove okay. Io sono andato, ho dato le dimissioni per la prima volta, anche quella quello sensazione. Però le trattiamo nella puntata la mia prima volta esatto. Che abbiamo già fatto peraltro, esatto, nella mia prima volta 2.0 li ritratteremo. E difatti mi ero dimenticato, ci tenevo a dirlo, nella puntata 5 che abbiamo parlato la prima volta volevo proprio dire questa. Per chi non conoscesse, Fede ha un autismo verso i numeri, secondo me. Si ricorda tutte le cose poco importanti, ma se le ricorda tutte, numeri in particolare, secondo sì, me. Sì, poi apriremo anche uno sportello. Chiedi a Marghe, Fede, Marzi, in cui daremo consigli in questo caso di missioni. Possiamo dare altri consigli, sempre un po' superficiali. Quindi però almeno sapete che cosa cercare su Google. Noi mai profondi. Mai profondi. Tra l'altro, mi è arrivato a me una domanda diretta a me. Wow, uh-huh. È la prima volta. Mi chiedono se lavoro lì ancora. No, per fortuna no. Quindi ho avuto. Quindi è stata proprio una scelta di merda quella. Ma proprio di merda, raga. Cioè, durata tipo un anno con impianti. Un anno è tanto. E ansiolitici. Però dopo un anno ho avuto la mia terza. Prima volta al nuovo lavoro. Ok, però quello ne parliamo nelle terze volte. Sì, esatto. Ok, ottimo, ottimo, perfetto. E nel momento, diciamo, la sera, cioè nel momento in cui avete deciso di chiudere la cosa che stavate facendo e iniziarne una nuova, nei giorni precedenti, iniziare, quindi non la notte, quindi nei giorni precedenti, vi siete sentiti che effettivamente potevate portare qualcosa, cioè le vostre aspettative erano quello di portare qualcosa di nuovo nell'esperienza nuova, e poi avete confermato, nel senso che poi nel nuovo lavoro avete detto, cazzo, effettivamente sono cresciuto, ho imparato, non è più come la prima volta, è la seconda volta. Allora sì, è esattamente quello che ho detto al colloquio quando mi hanno assunto. No, allora sì, nel senso che sicuramente cosa di quello c'è, nel senso che mi sentivo un po' più... Sì, un po' più... innanzitutto capace. Un po' più capace. Sapevi mettere in copia le persone alle mail. Sì, e inoltrarle alle persone giuste, perché io lo dico, faccio un lavoro de merda che è chiamato io lo chiamo personalmente il crocevia della merda. Ma e faccio l'account. Ce l'ha scritto anche su LinkedIn la Marga. Esatto, crocevia della merda. Per molti è: ah, ma tu inoltri mail? Esatto, quindi in quel caso ero già capace di inoltrarle, quindi ok. Mettendo gli allegati giusti, mettendo gli allegati giusti, sapevo fare rispondi a tutti. Bravo. No, non male, sono riuscita anche a mettere la firma, insomma. Oh, brava, tutto brava. Bene, tutto bene. Una campionessa. Si vede? No, io vivevo un po' della situazione della sindrome dell'impostore, quindi sempre sotto le aspettative, le mie aspettative personali, o meglio, le aspettative che gli altri hanno nei miei confronti, però poi dopo sono arrivato, mi sono trovato bene. La cosa che mi premeva di più era subito fare degli amici al lavoro, perché poi avevo un bel gruppo dalla parte che lasciavo e mi spiaceva andare in un posto magari di stronzi, però invece in realtà è andata benissimo, quindi anche su quello no pressure. Bene, benissimo, mi avete dato preziosi consigli, anzi dai, datemi un consiglio vero per la mia seconda volta. Un consiglio vero per il primo giorno di lavoro, però parte due, proprio il primo giorno di lavoro. Vabbè, che puoi arrivare anche alle 9:30, secondo me. Ah, ok. Sì, e scopri chi è il vero gruppo cool dell'ufficio. Ottimo, questi sono consigli immaturi che troverete solo su Radio Zamme, solo dopo. Ma infatti, ragazzi, se siete lì per mollare il vostro primo lavoro e, come dire, state per fare inoltro nella richiesta all'INPS, esatto, e le dimissioni, state per fare wow, me ne vado, perché in effetti sono pochi giorni, il 15 ottobre, per cui nel caso sbrigatevi. Sì. Noi siamo qui, tutti noi con le nostre tre esperienze diverse, ma cioè abbiamo una che si è acculturata, due che l'hanno vissuto in due modi diversi, siamo pronti per guidarvi in questo cambio. Secondo primo passo. Quindi da settimana prossima non saremo più fuori dal comune, ma saremo consulenti del lavoro at Radio Zamme. Esatto. Io chiudo dicendo che ho avuto anche un secondo primo giorno di scuola al liceo. Ah, ecco, perché infatti l'altra cosa è la seconda volta della ripetere l'anno scolastico. No, io non sono stata bocciata, scusate, ci tengo a dirlo, per il mio curriculum vitae sociale e psicologico, sì. Anche se non c'è niente di male. Anche quando sei over 30 fai ancora shame it on the bocciato. No, però siccome fanno shame it su qualsiasi cosa, forse un po' sì, quindi non era per quello, ma mi hanno cambiato classe. Ah. I miei genitori hanno deciso di cambiarmi classe. A classe, neanche scuola? Sì, ma sì, non mi piaceva più l'indirizzo che avevo preso. Okay. Cioè, ma non ti piaceva, a loro non piaceva più l'indirizzo che avevi preso tu, nel senso che iniziavi a frequentare della gente, sì, esatto, strana. E mi hanno visto nell'angolo farmi di ero, hanno detto: ma forse questa classe a 13 anni e mezzo non è carino, no. No, perché invece le seconde prime volte che effettivamente anche io non ho mai provato sono quelle del ripetere l'anno. No, neanche io. Non ero una cima a scuola, però ho solo rischiato. Non possiamo portare questa esperienza. Facciamo un appello pubblico. Sì. Signori, se qualcuno lì fuori è stato bocciato e ci vuole raccontare in due righe questa la vostra secondo primo giorno di scuola, noi vi avremo molto piacere a leggervi. Tra l'altro è una cosa molto strana, perché prima dicevamo per il lavoro alla fine tu comunque vai avanti, cambi lavoro, però comunque qualcosa lo devi saper fare, mentre nel caso della bocciatura è ancora diverso, perché qualcuno ha deciso che non sapevi fare quella roba e te la fanno rifare da capo. Praticamente. Sì, tra l'altro parecchio hardcore, se ci pensi, rifare tutto l'anno. Sì, poi se ci penso adesso, sinceramente, che questa cosa mi terrorizzava. Se ci pensi un anno in meno, voglio dire, non è che ti cambia la vita. No, però noi eravamo terrorizzati. Per quello che a me è venuto subito di reazione, dire no, non sono stata bocciata. Perché comunque io me la sentivo sta pressa addosso. Ma raga, se ci pensate, è l'unico vero fallimento, che fallimento tra virgolette, che puoi subire dalla società, dai tuoi genitori in quegli anni lì. Ah, in quegli anni lì sì. Cioè. Sì. Vabbè, poi equivale al licenziamento, tutto sommato. Vabbè, vi lasciamo con questa con questo dubbio, con questo dubbio. Questa call to action, insomma, scriveteci le vostre. Pensateci alle vostre, come è stato quel secondo primo giorno nel nuovo lavoro, oppure come sarà questo giorno, esatto. In caso state meditando, ricordatevi che potete arrivare alle 9:30 e ricordatevi che assolutamente dovete scoprire subito qual è il gruppo cool di persone. Vi lasciamo con il prossimo pezzo, che è Voglio una pelle splendida degli After Hours. E da qua inizia la ricerca musicale, che è i pezzi sui secondi album degli artisti. E qua facciamo una frase a Fede. Grazie. Se va tutto bene. Loro sì che erano un bel gruppo di cool. Super cool. Tra l'altro ho pensato una cosa, come mai che non hanno mai utilizzato Voglio una pelle splendida per una pubblicità di skincare? Ma meno male, ma è presente, cioè è presente il come rovinano le pubblicità alcuni pezzi, cioè oro di mango. No, però raga, dovremmo... c'è anche da dire che c'è gente che darebbe, darebbe tipo un rene, due dita, un occhio, un mignolo del piede, sì, per avere il proprio pezzo. Parliamo di oro di mango, veramente? O quell'altra di zucchero con la mulino bianco? No, era il mulino bianco, o la Barilla. Vabbè, secondo me era tipo una pastina. Non mi ricordo, però vabbè, ne faremo una puntata dedicata. Sì, a come la pubblicità fa comprare le case, ma ti rovina la canzone. Vabbè, questa è una puntata su come sfruttare la creatività per farci dei soldi, ovvero come il capitalismo rovina l'arte. Esatto. Sì. Per light. Comunque, per chiudere il capitolo di prima, abbiamo un nostro ascoltatore che è stato bocciato due volte. Stiamo parlando di quell'ascoltatore. Stiamo parlando di quell'ascoltatore. Ciao Mike. Lui, esatto. E ha detto che è un'esperienza che consiglia a tutti, tanto che si è fatto bocciare anche la seconda volta, e però poi ha avuto una nota di pietà verso nuove generazioni che ci stanno ascoltando e che crescono con noi nel dire non seguite il mio esempio, studiate. Bravo Mike. Messaggio sociale, grande. Tutti i liceali che sono tra di voi o quelli che forse avranno dei figli liceali. Chi lo sa? Chi lo sa? Va bene, allora, un'altra seconda volta che sulle nostre, diciamo, nelle nostre conversazioni da bar, immagino che sia stata parecchio presente negli ultimi giorni, è quella del nostro nel senso di milanese, nuovo sindaco, nuovo non nuovo sindaco, ovvero la seconda volta di Beppe Sala alla guida di questa città, la città di Milano. E Beppe Sala è qui con noi. Eccolo. Ciao Beppe, come Ciao, va? Beppe. Ah, il microfono che non funziona, dice. Se ci suggerisci nell'orecchio parliamo noi. Grande, grande. Beppe, dacci un po', crea il fondo radio indipendenti e noi faremo funzionare, noi avremo dei microfoni migliori. Dice che è andato un attimo in bagno ma che torna subito, ma nel frattempo di cominciare pure. Ah, okay, perfetto. Va bene, ti aspettiamo. Questa gag fa ridere solo. Keep in touch, Beppe. Keep in touch. Va bene, vabbè. Allora, non nell'entusiasmo generale dei più, ma comunque confermato al primo turno il nostro amico Beppe Sala si appresta a guidare e occupare Palazzo Marino per i prossimi non so se userei la parola occupare Palazzo Marino, però occupare legalmente. Okay, occupare perché di diritto, okay. Perché gli è stato messo, okay. Cioè alla targhetta, cioè praticamente all'ufficio è presente con scritto Beppe Sala, perché pensate sindaco. Che sindaco, pensate che ci sia volte. Qualcuno nelle amministrazioni comunali che tutte le volte deve addetto a rifare le targhette, è il lavoro che vorrei, le targhette. Ok, allora, io vi chiedo, perché oggi è così. A me, a lui? A voi due. In generale. Okay, ci piace. Chiedo ai nostri ascoltatori, ovviamente, quando vorranno e se vorranno, e chiedo a tutti voi, in realtà, di chiudere gli occhi. Ok, chiudete gli occhi. Chiusi. Avete appena vinto le elezioni al primo turno. Ok, avete davanti a voi 5 anni di amministrazione per una città, tendenzialmente una città tipo quella di Milano, ma potrebbe essere, immaginatevi anche altre città se vi viene più comodo. Glasgow. Tendenzialmente siete anche Gazzata Schian, anche Glasgow volendo. Mm-hmm. Tendenzialmente siete un po', cioè non... Avete anche delle rughe, siete anche un po' là con l'età. Ammettiamo, non voglio entrare nella debacle politica, ammettiamo che dopo non ve ne freghi più un cazzo di fare politica, quindi dite, oh, mi faccio questi 5 anni, poi vado a mangiare la focaccia di Recco in Liguria a Varigotti. Stai parlando sempre di Sala comunque, cioè. No, io sto parlando di ognuno di voi, quindi okay. Siete vi apprestate alla pensione, ok? Voi però non avete più voglia di fare, quindi questi 5 anni, vi hanno dato il titolo, vi hanno detto vai, quindi non avete niente da perdere, questo è il sunto. Ok, grazie perché ci eravamo un po' persi. Esatto, okay. Quindi state. Ok, qual è la prima cosa che fate? Sì, ma da quando fanno le domande? Ok, qual è la prima cosa che facciamo da sindachi e sindachesse? Sindaco della città di Milano, di Milano, della città che ti sei immaginata, okay. E non hai niente da perdere, cioè puoi fare quello che vuoi perché ti hanno detto vai, okay, e nessuno ti verrà a rompere i coglioni. Beh, è una... Beh, mi sento, ma tu rispondi in modo serio? Io ci sono, ce l'ho la risposta. Allora vai tu, così ti copio. La prima cosa che farei è... fare in modo tale che realtà come Forza Nuova e Casa Pound non esistano nella mia città. Ok, la presa seria. Io pensavo che mi dicesse mettere i preservativi nelle macchinette come al liceo. Comunque aveva gli occhi chiusi, ve lo voglio dire. Gli occhi chiusi. Sì. Vabbè, allora vado anch'io semiserio, mi occuperei della movida notturna. Ah, brava. Bene. Io no, bravo. Certo. Chissà il nostro amico Beppe. E tu Marzi? Io ho troppe cose farei, quindi non ve le dico. No, la prima, una. Anche non in ordine. La prima cosa che farei, se fossi nel sindaco di Milano, nel sindaco di una città che ho pensato, in questo caso ho pensato a Milano, il primo giorno è prenderei la 90. Tu? Che brava, per andare a vedere. Non solo prenderei la 90, con tutti gli assessori miei, tutti insieme, prendiamo tutti la 90, anzi prendiamo la 90, poi scendiamo e prendiamo pure la 91. Okay. Poi magari vi addormentate perché avete bevuto troppo. Esatto, cioè siamo su tutto il tempo e cerchiamo di parlare col, con non è male, non è male. Sicuramente una sindaci che ci mi sembra anche poco effort. No, infatti una che ci mette la face. Sì, forse lo farei anche oggi che c'era sciopero dei mezzi, quindi aggiungerei questa questo tocco di challenge. Questo twist. Esatto, questo twist. Okay. Poi una volta scesa dalla 90 farei è tipo il triathlon, no? Farei trovare delle bici a tutti, delle bici anche un po' sgangherate, e gli farei andare tutti da una parte della città X all'altra. No, da una parte della città dove sono scesi e andrei dall'altra parte della città tipo in posta. Ok. Mm. Vabbè, rimane solo Marzia, secondo me, in questo quindi tipo gli immaginari. Mai dire banzai. Esatto, sono gli Hunger Games del comune. Okay. Che tutta la giunta dica: oh, finalmente ho capito. Ho capito. Potrebbe essere un bellissimo film questo. Sì, soprattutto non so quanti consiglieri ti rimarrebbero. Questa è la prova del 9. No, infatti, fossi io. Certo, non è, cioè, nel senso, forse sarebbe una cosa perché mi dovrebbero dare contro. Forse nella domanda non ho più niente a perdere. Farei una roba tipo, non lo so, riempirei di fiori tutta la città. O manderei. Che ne so, era più bella l'altra, secondo me. Sì, a me piaceva di più. Io c'ho l'allergia. Una sboronata volevo dire, ma infatti niente. Fermati all'Hunger Games, che secondo me è perfetto. A posto. Cioè, hai fatto una gran figura, hai spaccato. Volevo un po' far ridere, ma non mi viene in mente niente. Ma di anche riflettere. Ma anche riflettere. Vabbè, ragazzi, a questo punto a voi la palla. Vi abbiamo dato tre esempi più o meno complessi. Fateci sapere nel frattempo che qui snoccioliamo questo secondo tema. Che cosa fareste voi? Ma non ho capito solo una cosa. Per la seconda volta. Ah, ok. Quindi hai già fatto? Sì, perché dobbiamo togliere la base. L'importante è che bisogna togliere il tema di tra 5 anni voglio essere rieletto. Non ci deve essere più questa cosa. Quindi ecco, tu già conosci la città. Okay. Conosci la città, però evidentemente non hai mai preso la 90 e la 91. Certo. Quindi temi tipo piazze risistemate, ping pong, tutte queste robe qui l'hai già fatta alla prima? Sì, abbiamo già fatto tutto. Okay. Nel senso, tutte le cose che creano consenso nei miei confronti l'ho già fatti. Okay. Ora posso fare sbragare. Ah, okay. Paradossalmente potrebbe andare meglio di quello che è stato nei primi 5 anni. Potrebbe essere più spontaneo. Esatto, viva la spontaneità in quel caso. Che è un po' quello che è mancato forse alla campagna elettorale del nuovo sindaco. Sì, della campagna elettorale. Ma infatti quale campagna? Questo è il tema. Nessuno, cioè fuori dalla bubble, nessuno sapeva, cioè se nessuno aveva ben presente né chi votare né cosa votare fino all'ultimo. È stata veramente poco divertente. Sì, assolutamente poco sentito. Cioè, veniamo da anni di, capito, Pisa Pia, ma anche lo stesso Sala alla prima era abbastanza sentita. Sì, ma perché adesso noi ci piace un po' anche la cosa plateale, siamo un po' dentro le robe, sì, quindi dai, vogliamo un po' di dibattito, un po' di convincere le persone, invece non ci siamo per niente divertiti. Esatto, poi forse lui aveva esaurito l'effetto wow durante i precedenti anni, cioè vogliamo ricordare le calze colorate? Vogliamo ricordare la foto su Instagram con... Vabbè, ecco, questa è la domanda. Qual è il post su Instagram di Sala che vi ha fatto più dire wow? Io ce l'ho chiaro e forte in mente. Ma wow, in senso positivo o negativo? È la foto con Rondo da Sosa e Saki. Esatto. Certo, anche per me quella è stata. Ma cioè, infatti vorrei chiedere per piacere a qualcuno di voi che penserà, immaginerà a Milano, di per piacere come prima cosa organizzare un concerto di Rondo da Sosa, che sono questi rapper, chi se lo fosse, si fosse perso quella puntata non si ricordasse più. Però praticamente abbiamo fatto, non mi ricordo che cos'era, zona 7 il tema, non so, abbiamo parlato solo di San Siro. Praticamente ci sono questi due rapper milanesi, cioè milanesi, milanesi che stanno in zona 7, zona San Siro, che praticamente hanno fatto una canzone che si chiamava Seveno. Sì. Sono diventati famosi, diciamo, tra i ragazzini sono già famosi, sono diventati famosi sulle testate nazionali, nucleari. Direi. Perché a un certo punto, durante quest'inverno, mi sembra quest'inverno, questa primavera, insomma, ancora restrizioni attive, avevano organizzato questo video per strada, nelle strade di zona 7 hardcore San Siro, in cui dicevano a tutti: raga, venite, facciamo il video. Morale della favola, si è presentato un botto di gente, un botto di sbirri, si sono un po' presi sotto tra i ragazzini che veramente avevano tipo 12-13 anni, sì. Rondo da Sosa, e che sembra anche un po' in dialetto detto Rondo da Sosa, no? Sì, un po' sì. E come, non mi ricordo più come siamo per la foto di Sala. E poi sono andati, dopo qualche giorno sono andati a fare, cioè è comparsa questa foto con Sala. Comunque vorrei solo dire che i nostri amici Rondo da Sosa e Sacchi. Quest'estate hanno fatto degli altri piccoli casini, hanno fatto concerti illegali eccetera eccetera, quindi forse io, se fossi il sindaco Sala in questo momento, organizzerei un mega concerto di Rondo da Sosa, dicendo raga, ve la sbatto in faccia per chiudere il cerchio, in buona sostanza. Mitico. Qua dicono, giusto perché ci stanno scrivendo, io tengo sotto d'occhio, ci dicono che alla domanda le foto di Sala ci risponde un interista, sì. Non sono stato io. Ok, vabbè, lì vediamo che messaggi. Mi chiedono dove sono le chat per scrivere, la gente non ha ancora capito. Certo, scusate, ripetiamo dove potete scriverci, perché effettivamente vi stiamo facendo le domande molto interessanti. Infatti tocca scriverci. Allora, potete scriverci su Instagram, perché oggi non abbiamo Telegram, su Instagram Fuori dal Comune Stava Preso, che è il nostro canale Instagram. Ci ha mandato un messaggio slimed into our DMs, come dice Lizzo. Quindi ci ha mandato un messaggio in DM e noi vi leggiamo. C'è gente che ci ha fatto una carriera su sta roba. Sì, infatti. Esatto, tipo Lizzo. Infatti. Comunque ci trovate facile, Fuori dal Comune Stava Preso, tutto attaccato. C'è come immagine una logo scritta. Con scritto Fuori dal Comune. Direi più didascalici così non si può. Se amore. Teo, ce la puoi fare anche tu, che sei un mega boomer. Vai, ok. Pezzo? Pezzo e poi ospite. Prossimo. Esatto, non abbiamo detto niente. Non raga. Abbiamo detto niente. Ma oggi va così, a cazzo di cane. Lo diciamo al ritorno. Lo diciamo al ritorno. Che con però già l'ospite in linea a questo punto. Ah, beh, lo presentiamo. Okay, lo chiamiamo nel frattempo. Okay, facciamo una roba così un po'. Intanto vi mando. Comunque, nelle seconde volte, secondo me, ci si dimentica anche un po' che cosa tutto, si è fatto nelle prime. Esatto, ragazzi, in realtà siamo super dentro la puntata, secondo me. Cioè, è un inception. Stiamo facendo apposta. Stiamo facendo vivere questa nostra seconda prima volta. Bene, vi lasciamo con il secondo me, pezzo di Caparezza, che apre il suo secondo album ed è probabilmente l'inno perfetto per questa puntata. Caparezza ha fatto anche delle canzoni in onda manifestazione. Buon ascolto, sì. Secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Il secondo album è sempre più difficile. Italiani brava gente, italiani dal cuore d'oro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Di santi, di poeti, di mafiosi, navigatori, ma tutti rivorrebbero tra le dita la Montessori. Inglesi professori che non imparano un'altra lingua. Yeah. Ci sono, nella nostra famiglia ci sono già degli jacuzzi. Non sfumavi più prima, invece adesso sfumi. Ah no, al contrario. Così l'ho detto io a Fede. Senti, ma Fede, ma non è vero che Caparezza non fa solo musica da manifestazione? Mica mi sono sentita totalmente. Non è da manifestazione questa cosa. Ma dov'è? Parla ora? Delle seconde volte. È uscito poco tempo fa con un album. No, super bello, impegnato. Sai. Sì, ci sta. Ci sta, bravo Caparezza. Bene, bene, no, a me Caparezza piace sempre, però total manifestazione, Caparezza. Vabbè, ah, sì, no, richiamo quel mondo lì, sì, sì. Ma quindi abbiamo ricevuto dal dei nostro DM, pubblico. Sì, dei DM molto interessanti, com'è che si chiama lui? Matteo, io ti voto. Detto Lamenteo. No, ma Lamenteo, io ti voto. Perché? Che ha... lui come primo gesto da sindaci alla seconda volta abolirebbe... Sindaci. Da sindaci. Ah, sindaci come il Grinch. Ah, ok. Sì, era una città molto alta. Comunque lui abolirebbe. Tipo che io sono con lui, totale. Sì, grande. Dai, basta, chiudiamoli tutti. Anche perché in quante salse devi farle sti poche? No, la cosa bella è che mia madre mi ha detto che hanno aperto 3 pocherie a Varese il mese scorso. Ora, a Milano sono arrivate... boh, 3 anni fa, 4 anni fa. No, ma ci sono ovunque, ci sono anche sì. In provincia ormai. Bocchè è il nuovo negozio di vape, che è il nuovo... Sì, è vero, vape, bravissima. Ecco, va, è brava. Erba legale. Brava, sai che cosa farei io come sindaco la prima volta? No, pensavo come puntata. No, come sindaco okay. Il mio primo giorno, un'altra cosa. Sì. Se fosse d'estate il mio primo giorno, uh-huh. Manderei dei vape a casa tutti. Vai. Diritto fondamentale. Quello di... No, raga, delle zanzare. Ah, vabbè, ma non hanno mai aperto una roba solo per le cose della zanzara. Io vape. No, intendevo... no, però forse questa è una business idea. Ho capito, era un collegamento logico. Sì, sì, era la parola vape. Logico. Okay, è logico, ho i brividi a dire logico su questo collegamento, però. Vabbè, vape. Okay, assolutamente sì. Va bene, chi è che introduce il nostro ospite? Ci penso io? Vai. Mi occupo io di questo ospite. Tra l'altro faremo la chiamata in diretta come sempre. Sì. E due righe di presentazione. Intanto la Marghe fa partire io la chiamata dal centralino. Non muovere troppi tutto, cavi che si rompe tutto. Allora, è la prima volta. Il nostro ospite di oggi è un trio più uno, che è un animale, il quarto, però è un trio principalmente. Rispondono ai nomi di Riccardo, al telefono, Alberto e Alice, e sono conosciuti ai più come lessico familiare. Io chiamo, tu chiama, cosa che poi andremo a vedere appunto in base a quello che ci racconteranno anche per quanto riguarda il loro nome. E cosa fanno questi ragazzi ora? Beh, intanto ci rispondono, questo speriamo. Mi sembra un'ottima. Fischi! Ciao, eccoci. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao, tutti. Ciao. Come state? Bene, bene. Bene. Siete tesi? Un po'. No, non dovreste essere tesi. Perché Fede sta per farvi la introduzione più bella del secolo. Esatto, l'introduzione più bella del secolo è proprio questa che ho appena fatto. Infatti, secondo me l'aveva già finita. La più bella. Che ho appena fatto, e stavo provando a presentare un po' ai nostri ascoltatori il lavoro che fate, però ho pensato, chi meglio dei ragazzi di Lessico Familiare può fare questa cosa, no? Quindi, allora, i nostri ascoltatori al momento non sanno nulla di voi. Quindi tocca a voi adesso. Quindi tocca a noi presentarci. Vai, presentatevi. Vabbè, noi siamo Lessico Familiare, che è un omaggio a Lessico Familiare di Natalia Ginzburg. E è un progetto nato appunto dopo aver riletto per la seconda volta il romanzo di Natalia Ginzburg in quarantena. Abbiamo riletto e abbiamo pensato questo è un bel titolo in generale proprio per il futuro. Nel mentre abbiamo iniziato a scucire tende, maglioni per farci dei vestiti, riempire il tempo in quarantena, e niente, abbiamo iniziato a postarli sotto questo nome, Lessico Familiare, perché era fatto proprio con capi familiari presi dall'armadio, le tende, le lenzuola, qualsiasi cosa. E pian piano, nel giro di un annetto, abbiamo iniziato a crescere. Quindi diciamo che siamo un trio, un terzetto, dipende dai punti di vista. Un tridente. Esatto. Che tende a cucire e assemblare i vestiti, facendone altri molto molto più grandi. Okay, quindi fate vivere per una seconda volta i vestiti, i tessuti. Esatto. Una seconda, una terza, una quarta, chissà. Esatto, infatti non solo una seconda, ma anche più volte, e non solo vestiti, ci teniamo molto a specificare che usiamo anche tovaglie, lenzuola, tende, tutto quello che insomma si può scucire, ricucire o cucire, basta. Ok, e voi avete detto che li fate vivere in una seconda vita, la loro seconda, terza, quarta vita, comunque la vita da lessico familiare è una vita molto più grande. Una vita molto più comoda. Ok. Bellissimo, potete scucire me e rimettermi dentro in una vita molto più comoda, per piacere? Se vuoi. Grazie. Ok, e come mai più comoda? È più comoda perché è fatta di taglie uniche, quindi non c'è più la taglia, non c'è più il genere, quindi tutti mettono tutto e è proprio veramente la vestibilità, che sembra sempre una parola così tecnica o da e-commerce, in realtà è veramente per chiunque. Proprio sono, noi li chiamiamo neanche vestiti, sono indumenti familiari, perché ognuno riconosce poi con che pezzo è stato fatto, e vestono ogni taglia ma anche ogni età. Infatti noi abbiamo iniziato fotografando la nostra vicina, la signora Linda, questa signora che era un'ex infermiera, nostra compagna di quarantena. Da lì siamo passati poi ad altre sciure. Abbiamo questo target per le fotografie, poi passando per i bambini abbiamo sempre queste camicie fatte per esempio da due colli, quindi un bambino sbuca da una parte, uno sbuca dall'altra, e poi Alice. È stata la nostra prima acquirente, e poi noi abbiamo comprato lei, è stato il primo acquisto. Quindi Alice praticamente si è comprata la possibilità di venire a lavorare insieme a voi. Esatto. Molto bello. Io ho una domanda. Vai. A questo punto, per me, ma anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ma quindi come funziona? Cioè io vi scrivo su Instagram e vi dico, che ne so, ho una tenda bellissima in casa che non uso più. E voi, cioè come funziona? Mi fate voi delle proposte o devo venire io con l'idea? Esatto. Esatto. Diciamo che noi abbiamo sia una collezione nostra fatta con capi che erano dei nostri armadi, e poi ci piace questa idea che le persone ci diano dei capi che non usano più. Uh-huh. Poi noi facciamo una proposta tramite disegno o anche solo avvicinando un po' i tessuti, facendo vedere anche cose che già facciamo, e poi magari la uniamo con qualcosa che abbiamo noi, oppure usiamo anche solo, per esempio nei casi delle tende, tante volte usiamo solo una tenda perché c'è tanto volume, la arricciamo, facciamo fiocchi, cappelli, quindi o usiamo diciamo il materiale che ci viene dato, quindi c'è questo rapporto diretto poi con la persona, oppure troviamo del nostro archivio. Che bello, quindi se io tipo porto una tenda e Marzi porta una tenda, magari poi create un indumento anche da la tenda Marghe e la tenda di Marzi, o un campeggio sì, in quel caso. Anzi, più c'è tessuto meglio è per noi, perché poi noi veramente arricciamo e si sfiora sempre un po' l'abito da gran sera con tutte le arricciature. E mi viene da pensare subito a tutti i corredi che si possono riciclare, insomma qui si può dare una seconda vita, perché effettivamente tipo mia nonna o comunque le nonne, le zie, insomma, vero, i parenti hanno questi corredi che una volta servivano quando ti sposavi, ti davano la dote, no? Mm-hmm. E quindi avevi le tovaglie, le lenzuola e i tovaglioli, così in effetti potremmo pensarci di... Ah no, ma è molto bella questa cosa, quindi la call to action al nostro pubblico è andate da vostra nonna e derubatela dei corredi. O da vostro padre, le camicie che non usa più. Vero. Da tutti quelli che hanno cose che non usano più, tutti quanti. Difatti la cosa più bella, secondo me, io vi conosco tramite l'Alice, e la cosa più bella è che vedendo il vostro profilo, vedendo il vostro lavoro, cioè mi verrebbe da dire che voi fate anche indumenti, perché poi anche la resa delle fotografie, della comunicazione che fate, del vostro sito, cioè non mi limiterei a dire che sono appunto indumenti. Cioè la cosa bellissima è, se voi andate a vedere il profilo di Lessico Familiare, tutte le storie che ci sono attaccate, perché tu dici ma questi qua non è che vendono indumenti, c'è tutta una storia dietro. Sì, è un po' quello proprio l'omaggio al Lessico Familiare di Natalia Ginzburg, nel senso che anche noi abbiamo cercato come lei di tradurre poi un nostro lessico, che non è solo la camicia, la tovaglia o quello che gira intorno all'indumento, ma è tutto quello che c'è un po' intorno, dalla comunicazione, dalla fotografia, dalla storia, un po' tutto quello che ruota intorno poi al singolo indumento finale o al singolo prodotto finale. Quindi possiamo dire che siete assolutamente uno di quei fiori che la pandemia ha fatto nascere. Sì, ma infatti io mi sento, mentre hanno detto ah, noi in quarantena facevamo questo, io riflettevo su quello che facevo io in quarantena e mi sentivo piccola piccola. No, ma è iniziato veramente anche per me tagliando un 2 maglioni, quindi era proprio, era fatto per riempire il tempo, poi man mano sta prendendo il nostro tempo, fortunatamente sta prendendo man mano le nostre giornate. Che è bello. Una realtà nel piccolo che esiste, sta andando bene, diciamo. Bene, bene, quindi per i nostri ascoltatori, per scoprire Lessico Familiare, vi consigliamo di andare principalmente su Instagram, dove trovate tutte le loro bellissime foto e anche tutte le informazioni. So che avete appena anche lanciato il sito, quindi trovate anche il link al sito e li trovate su Instagram come Lessico Familiare. E andateli anche a trovare in studio, che sono anche simpatici. E di dove, o a casa loro. Da dove operate? A casa. Quindi letteralmente andate a casa loro a trovarli. Sì. Ok, molto carino. Sì, ancora meglio. Quel che si dice casa bottega. Esatto. Siamo da bere, da mangiare, quindi allora se è così bello veniamo subito, teneteci un tavolo libero settimana veniamo noi. Beh, siamo arrivati a la sottorubrica della rubrica più richiesta del mondo, che è opinioni non richieste. Sì, perché noi ovviamente non vi abbiamo avvisato, perché è così che si fa, ma ai nostri ospiti facciamo sempre una domanda chiedendovi la vostra opinione su una cosa che non vi compete. Esatto. Quindi, la domanda per voi è... Siete pronti? Sì, sì. No. Alcuni sono un po' impauriti, ma non vi preoccupate. Che cosa comprereste... Ok? Se domani vi obbligassero a comprare qualsiasi cosa guardando una televendita, cioè vi dicono avete un buono televendita, avete presente le televendite, no? Io personalmente potrei comprare tutto. Abbiamo scelto da full plate di Certoni a c'è tutto. Era esattamente quella corda che io volevo toccare. Volevo toccare quella corda dentro di te. Esatto. Come non comprare poi effettivamente le televendite? Sinceramente, sapete che io forse vorrei provare la gioielleria della vendita? Basta però. Il punto luce. Cioè il io punto proprio luce bello, sì. Io... Cardigan col punto luce. Ah, molto bello. Io mi ero appassionata molto del rullo. Ma questa è un'altra storia. Ho anche incontrato un tizio che l'aveva copiato. Bravo. Quello in cui la pittura non fuoriesce perché è tutta all'interno del... Pensavo stesse parlando del rullo, quello fitness. No. Quello che fai, tipo i piegamenti avanti e indietro. Quello firmato da Mastrota, non quello. Ah, ok. No, il rullo proprio per dipingere. Ah, utilissimo. Oltretutto lo usi quante volte nella tua vita, ma vabbè. Che sì, la sua particolarità è che tratteneva tutto lì, non devi fare quella cosa di pucciare il pennello. Fatta quante volte nella tua vita? Zero. Ma neanche avvicinata di sfuggita, tipo. Va bene, quindi okay. Siete dei grandi fan delle televendite comunque, quindi ci aspettiamo di venire a trovarvi a casa vostra a breve e vedere tutto quello che avete comprato tramite le televendite. O guardare appunto Insieme le televendite. No, oppure se ci sta ascoltando il baffo. Esatto, se il baffo ci sta ascoltando, il grandissimo baffo, che credo che non sia morto, no? Oddio, c'è un grande mistero su questa vita. Non è morto. No. Allora, se baffo, se ci stai ascoltando, vieni a vendere con la tua voce meravigliosa i capi, gli indumenti di Lessico Familiare. Che per chiudere giusto l'intervista, prima di ringraziarli, fanno tante cose stupende, fanno la moda più strana della moda e probabilmente sono anche delle persone simpatiche. Fanno la moda della seconda vita. Sì. Stasera Chicco è particolarmente dolce, attenzione. È un cuore di panna. Grazie mille, grazie, ragazzi. Grazie, raga. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie davvero. Ciao. Ciao. Mettiamo un pezzo. Mettiamo un pezzo un po' vintage. Sì, prima di mettere il pezzo vintage volevo dire che mi fanno sempre emozionare gli ospiti. È vero, anche a me. Tra l'altro, se vi pesa il culo, anche se state scrollando da 3 ore il telefono, trovate il tag di Lessico Familiare nelle nostre storie su Instagram, al canale Fuori dal Comune Stava Preso. Nel caso, messaggiateci, messaggiategli, messaggiamoci. Supportate. Sì, esatto. E sul tema ospiti, ai nostri ascoltatori. Sul tema ospiti. Chiederei anche che si vogliono, così nel frattempo, intanto che hanno ascoltato questo meraviglioso progetto, se volete, avete degli altri progetti in mente, degli ospiti speciali che dici minchia, con quelli di Fuori dal Comune farebbero proprio una bella cicciarata, segnalateceli. Bella idea, ma noi abbiamo avuto anche un prete, raga, quindi... Sì. Bene, lo trovate sempre nel podcast, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, pezzo. Sì. Andiamo col prossimo pezzo, andiamo al 1963, secondo album dei Beatles, signori, i quattro ragazzi di Liverpool che ci cantano Roll Over Beethoven. Eccoci qui, io vorrei, ogni volta che sento i Beatles, vorrei sempre essere una ragazza con una minigonna nelle strade di Londra che ascolta questa canzone. C'era già il Walkman? Sì? No. Ok, allora che nella cameretta che ascolta i dischi. Il disco. Che se li balla, belli, belli. Ok, benissimo, noi siamo affamati. Non di notizie, non di fama, ma proprio di cibo. Di cibo, sì, siamo literally affamati. Ma vogliamo aprire un capitolo tecnico proprio in questo momento. Esatto, proprio in questo momento vorremmo aprire un capitolo tecnico sulla seconda volta. E vorremmo aprire un capitolo tecnico sul secondo progetto. A questo punto chiedo all'esperto di turno. Che è? Sta bustando. Buonasera. Sì, buonasera. Io so che lei è l'esperto di musica e cinema, laureato con una tesi su i secondi progetti, giusto? Esatto. Ottimo, perfetto. Allora, iniziamo, partiamo dai secondi progetti, quelli andati male. Eros Ramazzotti. Ma lei intende forse il flop? Eros, ma... Eros, che è successo? È successo. Eros voleva partecipare, quindi sì. Era... Guarda che c'è Giubeppe che ti aspetta. A metà strada fra Eros Ramazzotti e mia sorella. Mi ha chiamato e mi fa, ma mi fai dire qualcosa? Cioè, ma stasera ci serve l'esperto. Vabbè dai, faccio finta. Vengo che... Sì. Okay. Certo. Eros Ramazzotti, il cui secondo album, sinceramente non so quale fosse, oh. Però ha scritto una tesi sui secondi progetti. Sì. E ci dice che... Raga, questa cosa non è vera. È una gag. Giusto per... Non credo che Eros Ramazzotti sia laureato. Comunque adesso cerchiamo. Sì, facciamo tutti i fact-checking del mondo. Esatto. Beh, ha iniziato a cantare molto presto. Vero, hai ragione. In quel caso la fama stronca la cultura. Allora, il secondo progetto flop, ovvero film, album, stavo dicendo CD. Album, era... progetti vari che nella seconda loro seconda edizione sono andati male. Quindi peggio della prima. Qui tocca a voi, perché noi vi diamo i nostri, ma qui tocca a voi riempirci letteralmente di M, quindi 4-5 messaggi. Riempirci di M. Con i vostri, esatto, con la vostra M del progetto. Quindi secondo progetto, inteso album, film, stagione serie TV, libro, qualsiasi cosa, qualsiasi del cosa mondo artistico. Flop, cioè proprio il primo benissimo e il secondo una merda, e noi vogliamo concentrarci sulla merda. Esatto. Eccoci, esatto, qua. E per questo motivo abbiamo un esempio lampante che è appena uscito nelle sale, che probabilmente il carissimo Eros Ramazzotti, esatto, che nel frattempo è uscito. No, un esempio lampante ad esempio è Space Jam 2. Ok. Cioè Space Jam 1 segna le vite di tutti noi, da ragazzini innamorati del basket, di Michael Jordan, dei Looney Tunes, bellissimo, stupendo, tutti quanti l'abbiamo visto, tutti quanti lo conosciamo. 20 anni dopo decidono di fare il sequel mega annunciato, un budget gigantesco, aspettative a palla, con LeBron James che poteva essere più o meno paragonabile a quello che era Michael Jordan all'epoca, non così grande probabilmente, però abbastanza grande, o la cosa più grande che potevano permettersi, data la dipartita del povero carissimo ricordato Kobe Bryant. Esce il secondo film ed è un mega flop. Io non ho ancora avuto modo di vederlo, però tutti quanti, le persone che conosco che l'hanno visto, c'è gente che si è addormentata a metà, gente mega depressa, gente che dice che la storia sembra montata abbastanza a caso. Quindi questo, le opinioni sembra... che vediamo sono sempre ovviamente raccolte da quello che sentiamo al bar, da una survey che abbiamo da fatto, da Small Talks a Small Talks, esatto, raga, dicono che faccia cagare e quindi boh, fa cagare di default. No, ma anche l'ho sentita, comunque, se posso portare anche la mia esperienza. Eri anche tu al bar. Anch'io ho sentito che faceva cagare, quindi sì, l'ho visto, quindi insomma. Siamo tutti, lasciamo il beneficio del dubbio a Space Jam 2? Amici, forse no. Amici, forse no. Qualcuno che abbia visto Space Jam 2 e ci, come dire, certifichi che è un flop, a questo punto potrebbe salvare questa puntata. Esatto. Posso dire anche io un flop? Certo. Siamo qua apposta. Secondo me il flop è stato quello del Grande Fratello. Oh, allora, bella. Raga, Grande Fratello 1, prima stagione, una bomba. Una bomba, dai, Tarricone, la Cristina, vero, la Marina La Rosa, Salvatore il pizzaiolo, mi ricordo tutti. No, vero, ci sta. Però devo dire due che... male. Dal 2 in avanti, tra l'altro. Esatto. Beh, però il 2 inizia... Quindi di flop in flop. Allora, facciamo così, la seconda conduttrice del Grande Fratello, che è stata Barbara D'Urso, quindi la prima è stata Daria Bignardi, la seconda Barbara D'Urso, flop. Barbara D'Urso, tra l'altro, nel periodo della sua ascesa totale, cioè è diventata grande praticamente grazie al GF, lei, dici? No? Secondo me è mezzo sì. Cioè, diventata grande, mega famosa, dico, è diventata famosissima. Sì, non immaginavo in termini di size. No, io dicevo di grande, tipo, oh, sei un grande. No, io non direi mai a Barbara. Non lei si è gonfiata, mezza sì, si è gonfiata anche. Non lo so, dobbiamo cercare, effettivamente non la conosco la secondo banchiera. Me, cioè almeno il mio ricordo di Barbara D'Urso, il primo ricordo è su Il Grande Fratello. Ah, io possibile. Però è vero, hai ragione. Grande Fratello, la prima stagione, stagione edizione è stata tipo wow. Poi da lì un flop dietro l'altro. Fino ad arrivare a Signorini, che vogliamo dirlo, no, è inguardabile praticamente. Non più la televisione. No, però io l'ho guardato ogni tanto e in questi anni qualche puntata qui e là e lui è orrendo. Ti è stato detto che effettivamente non è... Sì, esatto. In realtà non l'ho guardata, mi hanno detto che però la nuova edizione è condotta da Signorini e fa schifo. Quindi io che mi accodo come una pecora dico sì, fa schifo. E invece musicalmente, Fede? Ah, io dicevo, avevo segnato qua nei nostri appunti volanti la svolta che ha preso la musica del caro Mirko della Zona 4, conosciuto di più come Ercomi. Io mega fan di Ercomi della prima ora, aggressivo, tutto il rap che mi piaceva a me, e poi ha deciso che gli piaceva di più cantare. Però i soldi. Scusami, però non era il secondo album? Il secondo album, effettivamente, secondo me ha fatto lì il cambiamento. Lì? Sì. Blu. Ma il secondo album? Tipo Io in Terra, il primo era molto figo. Ma mi sa che ce n'era uno. Prima, no, ma cioè quello era il primo album ufficiale. Prima era un mixtapino, una cosa del genere. Quindi sì. Esatto. Che poi ci si inculano. Okay. No, e quindi anche quello lì è un twist. Succede magari con i cantanti che fanno il primo album. Oh, pazzesco. Cioè, vorrei ora vedere Blanco al secondo album. Cioè, cosa farà? Siamo al primo. Billie Eilish al secondo album. È il secondo album con quelle Billie robe Eilish, nuove che sono. Però Billie Eilish è al secondo album. Difatti, però, a me, ad esempio, Billie Eilish non mi ha stupito nella maniera in cui mi aveva stupito. Stavo dicendo, delle ultime uscite, forse Billie Eilish è quella che ho detto, vabbè, ok. E tra l'altro, sapete che cosa non mi sta più stupendo cosa? Di Billie Eilish? La seconda Billie Eilish, la nuova Billie Eilish. Ah, sì, anche a me mi ha già stupato. Anche se forse è la terza Billie Eilish, perché sì. La prima Billie Eilish era la Billie Eilish. No, secondo me è la seconda. No, perché la prima Billie Eilish era la Billie Eilish un po' adolescente, adolescente, un po' con la sua personalità. La seconda era strecciata al limite, quindi Billie Eilish col capello verde, tutta un po' rapper, tutta sì, rapper. Contro per forza, contro tutto, tutta gucciata in gucciata. Verde fluo e oro. E poi adesso abbiamo questa Billie Eilish che non solo cioè che persiste, sì. Che è questa Billie Eilish Glam, che all'inizio ho detto, bah, guarda che figata, perché alla fine il cambio era stato bello. Adesso un po' mi sta sgonfiando. Però anche forse io non sono il target di Billie Eilish. No, neanche io, però ti ho capita, perché anche a me mi sgonfia. Posso dire una parola che ho imparato questa settimana? Sì. Vai. Secondo me è diventato un po' stucchevole. Stucchevole? Vabbè, parola che non l'avevo mai usata. Ok. Di stucchevole non direi Billie Eilish, forse non so usare la parola stucchevole. Comunque no, invece... vi volevo dire, scusate, prima di passare invece ai successi, che il secondo album di Eros Ramazzotti effettivamente è quello che conteneva Terra Promessa. Ah, allora no. Quindi non è stato un flop. Lo mettiamo subito nel progetto più... Esatto, si chiama Nuovi Eroi. Uscito nel 1986. Un classico esempio di secondo progetto più figo del primo. Chi lo sa? Non so esattamente. Cuori agitati, il primo. Però Terra Promessa. Esatto. Però che non sai quella... che andiamo con i pro. Con il progetto più figo del primo. Ah no, scusate, anche in anche in Cuori agitati c'è Terra Promessa. Cioè in tutte e due. Quindi... Allora forse aveva gabbato il sistema rimettendolo. Sì. Pensavi che fosse nuovo? No, rieccotelo. È una sorta di remix. Va bene, ci sta. E allora, invece, passando dalle stalle alle stelle, secondo progetto più figo del primo, che tu dici, però il secondo bam, spacca. Sia che alza le aspettative, sia che magari dici, ah cacchio, come quelle cose lì. Tipo, mi viene in mente, velocemente, prima di dire le cose che ci siamo segnati, un esempio per chi c'è a casa. Sì, in spontaneità. Robbie Williams era nei Take That, giusto? Sì. Cioè, Robbie Williams per voi, e viene, quando lui inizia a cantare da solo, è considerata la seconda volta di Robbie Williams... È la seconda vita di Robbie Williams. Ed è meglio in questo caso o è peggio secondo voi? No, secondo me è un'altra cosa in questo caso. Dai, è un'altra cosa. Sì, è completamente un'altra cosa. Però se ci pensate tutti questi è un'altra cosa. Vero. Justin Timberlake, un'altra cosa. Harry Styles, minchia, cosa. Harry Styles è il king della seconda volta, della seconda vita. Gli unici che hanno fatto, proprio torniamo dietro, torniamo. Flop, che nelle loro carriere, nelle loro seconde vite da soli, sono i Blu. I blu. È vero, i blu no. E anche le Spice, secondo me. Anche le Spice. Beh, non è vero, perché Emma e Jerry Halliwell sì, beh, ma non erano grandi come erano durante le Spice. Non erano, cioè, non mai cioè, non sono no, è vero, non picchi. Una gran seconda vita, non la seconda vita di Eros Ramazzotti. No, scherzo. Cioè, non una gran seconda vita, però una vita abbozzata. Però sui blu sono d'accordo, tragedia. Sì. Comunque anche Eros Ramazzotti è andato la prima volta al Festival di Sanremo, credo, con i blu? No, con delle altre persone, con di cui Roberto Tozzi. Con aiuto. Un complesso. Taglia. Con un complesso. Con un complesso di Edipo. Ok, carrellata, progetti più fighi del primo. Beh, io avevo segnato, sempre sul filone di questa seconda vita, sì. Giorgio Poi, secondo me, cioè sì. Vado in Messico erano molto fighi, però Giorgio Poi da solo... Molto più figo molto anche, più se figo. Vorrei capire se farà degli altri... Ma appena fatto è uscito un singolo, quindi magari... Ecco, Marzi, piccola nota, abbiamo scoperto che è quella dopo. Che arriva sempre dopo alle uscite... Ok, o comunque molto poco dopo. Per fare un gancio, giorno. Facciamo un props. Il giovedì sera su Radio Zam c'è una nuova trasmissione che si chiama Sala Days. Ah, bravissimi ragazzi, ho sentito oggi, sono molto in gamba. E parlano proprio delle uscite settimanali. Quindi vedi? Marzi potresti fare o la nemesi dei Salad Days o ascoltarli per rimanere aggiornata. Okay, non so esattamente che cosa vuol dire la parola che hai detto, però lo farò. Vuol dire tipo cattivo, l'alter ego. Sì, tu fai praticamente le uscite della settimana un mese dopo. Esatto. Sì, come quella volta che ho scoperto che i Wombats avevano fatto un nuovo pezzo ed era uscita ad agosto e io ero casata. Ed era ottobre. Vabbè, comunque invece secondo me lo leggo perché non mi ero preparata, scusate, vado leggi. Così. Leggi. Mamma, ho perso l'aereo, mi sono smarrita a New York, a me è piaciuto, cioè lo definirei più figo del primo, perché il primo fa quell'effetto wow e ci ricordiamo tutti, super iconic, rivisto da poco tra l'altro. E non è Natale, però anche il secondo non era brutto, cioè come dire, asticella alta e la mantiene lì. A me è piaciuto di più il 2, devo dire. Ah, di più? Sì. Vabbè, però ci sono delle scene del primo che sono veramente storia. Marzi, tu cosa dici? Non me lo ricordo. Quello che va a New York. Ho capito la trama, ma non so distinguere gli scherzi di uno, se mi hanno fatto più ridere gli scherzi dell'altro. No, alla fine storia. È quello che fa ridere. Che va al Plaza. Intanto lui era in un hotel, non a casa. Cioè, mi ricordavo che c'è Trump, no? Uh-huh. Esatto, nel negozio di giocattoli. No, secondo me nella Hall del Plaza becca Trump. Perché nella Trump Tower. Hai ragione. Ah. È vero, era Trump. Sì, è vero. Ok, va bene, dai, mandateci nei nostri DMs. Dovremmo fare Chicco una... Chicco sono io, sì. Per chi non lo sapesse. Fede o sono Nes Chicco. Dovremmo tagliare un pezzettino di Lizzo. Di Lizzo che dice slide into my DMs e la mettiamo ogni tanto. Va tipo bene. Avere un bottone. Questo sarà il progetto. Il progetto creativo della settimana. Questo è il progetto creativo. Comunque, della vi settimana. Stavate chiedendo, ma che cazzo ha fatto quella sigla bellissima? A parte il fatto che, spoiler, eravamo noi a cantare, non Calcutta. Se non l'avevate capito. Sentito, sì. Comunque, Chicco, Fede, Federico, poi che altri con nomi di sopra. Basta. Ha fatto tutto lui con le sue manine. Sì, non che fosse particolarmente difficile. Però insomma, non è che. Cioè, sono il fonico di. Fuori dal comune. Se volete anche voi la sigla della vostra vita, esatto. Scrivete a Federico su Light into Fedes DM e farà il lavoretto. Caldissimi. Ragazzi, scriveteci il vostro secondo flop figo, eccetera. Il tempo l'avete seguito. Eccetera, esatto. Vai. Pezzo. Vi lasciamo con un pezzo al quale io sono molto affezionato. Secondo album dei Baustelle, che li chiamerò sempre Baustelle. A Marghe non piacciono, ma non ci interessa. Quindi vai. La moda del lento. Vai. Mi stupisce la bello, bello e Baustelle, sempre, sempre esperienze sempre catartiche ascoltarli. Esatto. Comunque, no, volevo solo farvi un appunto sulla Barbara D'Urso. Ah, allora, sempre dalla mia fonte ufficiale, ovvero Wikipedia. Mm-hmm. Allora, innanzitutto volevo dirvi che lei debutta negli anni 70 a Telemilano con il nome di Barbara, in quanto Maria Carmela, che è il suo vero nome, viene giudicato troppo meridionale dai dirigenti della TV Lombarda. Che bella che è la stessa che negli anni 80 cambierà nome in Canale 5. Quindi lei parte da Canale 5, però prima di ha fatto tante altre cose, varietà, bla bla bla, e poi però il suo grande successo, e quindi la sua seconda volta effettivamente, è stata La dottoressa Jo, che è una serie TV in cui lei faceva la ginecologa. Beh, no, lo possiamo mettere nei flop come seconda volta? No, è quello dipende. Che la, è gran, cioè Wikipedia lo chiama il grande successo. Vabbè. Grande successi. Beh, personalmente flop. Anni 90. Dato che non l'hai visto. Sì, sì. Sì. Per chi si è connesso ora, vogliamo ricordare, beh, innanzitutto siamo fuori dal comune E vorremmo anche sapere perché ti sei connesso ora. Esatto, innanzitutto perché ti sei connesso ora e puoi dircelo seguendoci su Instagram a Fuori dal Comune Stava Preso, scrivendoci nei DM. Sì. E comunque stavamo parlando di seconde volte. Esatto, sì, seconde volte. Adesso, insomma, abbiamo affrontato gli argomenti un po' seri. Adesso vorremmo un po' raccontarci tutte le altre cose che ci sono venute in mente quando abbiamo pensato alle seconde volte. Quindi la buttiamo in caciara a questo punto. Siamo arrivati alla al fase momento caciara. Al momento della serata. Vabbè, vai, Marzi, comincia tu. Buttala in caciara. La chiameremo seconda volta, aperte le virgolette, experiences. Allora, seconda volta experiences. Scelgo io? Vai. Scegli tu. È la tua seconda volta. Secondo me interessante capire un po' il concept della minestra riscaldata. Vai. Lo vorrei esplorare. Vai, esploriamolo. La minestra riscaldata, also known as, quando riprendi una relazione che avevi chiuso, quindi rinizi una relazione per la seconda volta. Parte col botto! Sarà il mio topic, lo ripropongo. sempre a noi. Esatto, lo ripropongo sempre a voi. Quindi, allora, ogni volta si dice la minestra riscaldata fa un po' cagare. Personalmente la minestra riscaldata, overall, non la demonizzo. Ok. Non la demonizzerei. Nello specifico? Nello specifico, effettivamente non mi è andata benissimo. Neanche a me. Includiamo il tiremolla in questa cosa? No. La seconda volta, secondo me, c'è stato. Vi siete frequentati. Non è andata. Stacco. Cambio di scena. Vite parallele che vanno avanti. Esatto. Anni. Vi rincontrate? No, mai successo, non ho esperienza a riguardo. E com'è andata? Male. Un po' meglio della prima, un po' meglio della prima. Ah, un po' meglio della prima volta che vi... Sì, okay. Perché forse la prima volta era andata particolarmente di merda. No, scherzo. Però un po' più ricca di contenuto della prima, mettiamola così. Forse, ecco, ci aggiungo un po' più di intimità, un'intimità da non scoprire ma ritrovare. Quindi porto dell'intimità maggiore, quindi quello sì. Porto, forse anche un pochino più di entusiasmo da un certo punto, perché vista l'intimità si era più, come si può dire, ci si sentiva più a nostro agio, mettiamola così. Ecco, poi però, come dire, spero si che spegne. Non ci sia una terza volta, perché sennò a questo si punto spegne, dopo un po' si spegne, sì. Quindi nel mio personalissimo caso un po' meglio, bene ma non benissimo. No, mi sembra una bella analisi, Margie. Ok, va bene. Io ci sono tantissime storie nate da comunque minestre riscaldate, gente che sta insieme al liceo, poi si è lasciata per anni, poi si sono ritrovati quella volta in un seduti giù per terra a vedere uno spettacolo di pagliacce. La mazurka clandestina. Hai preso la seconda volta per eccellenza. Esatto, comunque vi vorrei raccontare di una seconda volta, di una minestra riscaldata. Non si sono incontrati guardando uno spettacolo di pagliacci seduti sulla Martesana, ma? Sono la coppia più famosa del momento, direi assolutamente. Sono la più bella del mondo. E sono... Beh, l'avete capito tutti. Esatto. Chi sono? Due punti. I Bennifer. Ah. Sì, ho tergiversato perché non mi ricordavo esattamente se era Jaffleck o Bennifer. Jaffleck o Bennifer. Comunque vabbè, i Bennifer, ovvero Ben Affleck e Jennifer Lopez, sono ritornati insieme. Ma da cosa nasce? Quindi cercherò di riassumere molto velocemente. Quindi ora inizierò a parlare molto veloce per riassumere il tutto. Vai. No, allora, coppia cult degli anni 2000. Esatto, quando mi partono loro, originariamente. Allora, sono stati visti baciarsi per la prima volta a luglio del 2002. Ok. Erano co-stars and friends. Ok. Quindi ha una surprise birthday party, loro si sono visti, insomma, che si baciavano. E, però la Jennifer Lopez era sposata al tempo. Mm-hmm. Era sposata qualche giorno dopo proprio quel primo bacio, quindi evidentemente aveva già qua dalla timeline da parte. Sembra proprio letteralmente esatto. Due giorni dopo il bacio. Due giorni dopo il bacio la Jennifer mi aveva già messo da parte suo marito, che comunque era il secondo marito. Ah, quante seconde volte. Jennifer, facci sapere com'era, com'è la seconda volta al matrimonio, altrimenti chiamiamo qualche nostro amico. Esatto, e quindi niente, da lì sono stati insieme. Poi quando lei ha fatto la premiere di Jennifer on the Block, ovviamente lui c'era, insomma, lì grande, condiviso grandi momenti. Assolutamente, condiviso grandissimi momenti. Finché a un certo punto, a novembre del 2002, quindi baciati. È poco. Baciati a luglio, novembre del 2002, quindi dopo solo pochissimi mesi, engaged. Quindi esatto, lei o lui, non si sa, Ben proposed to Jen at his mother house in Boston, quindi lui fa la proposta di matrimonio. Bravissima. Gli fa la proposta di matrimonio e niente, non si sposano. Ah, non si sposano. Qua c'è anche il capitolo fuori dal comune per il sociale, in cui insegniamo l'inglese alle persone che non lo conoscono. Esatto, facciamo quindi tutto per voi, tutto. Comunque ci vuole un po', era novembre, ci vuole un po' per organizzare il matrimonio, quindi la vita scorre. Loro si conoscono sempre di più. Si conoscono sempre di più, esatto. Arriverei a quando si lasciano. Niente, avevano organizzato questo matrimonio a settembre per 400 persone a Santa Barbara. Settembre 2003, quindi siamo a un anno dopo. E poi tutto si è un po' affievolito, diciamo. Esatto, si è affievolito perché Jennifer Lopez has ended their engagement to Ben Affleck. Ecco, l'ha iniziata Ben, l'ha ended Jennifer. Esatto. Ma qui le vite parallele quindi cominciano. Fast forward. Iniziano. Siamo nel 2004, loro si dovevano sposare. Niente, va avanti la vita, le cose, le altre, finché a un certo punto, dopo due matrimoni e diversi bambini, a un certo punto si rivedono di nuovo insieme. Si rivedono di nuovo insieme nel 2021. Eccoci qua. Quindi era il 2002. Quattro. Ora che era il 2004, quando a un certo punto, che cosa il 30 aprile 2021... si vede la famosa foto di Jennifer Lopez che esce da casa di Ben Affleck. E poi l'altra famosissima foto di loro due che si toccano i culi sulla barca, no? Esatto, poi quest'estate, fino ad arrivare alla famosissima foto di quest'estate, in cui loro, il giorno del compleanno della Jennifer Lopez, a luglio, su uno yacht, si toccano il culo a vicenda. E questa non credo che sia una minestra riscaldata. No, forse che questo è il vero secondo amore. Ore, non lo so, vedremo quanto dura sto chi giro. Lo sa, vediamo. Ora che abbiamo ammorbato con un gossip, insomma, una storia che forse potrete raccontare al parrucchiere, anche se la sanno già tutti, ma almeno avete il contesto. Esatto, vi abbiamo fatto un refresh. Io diciamo. Non avevo Alba, che loro sapevo che stavano insieme, coppia iconica, ma non sapevo che lei avesse mandato a monte. E neanch'io. Affoldato, come si dice? Foldato. Va bene, okay. Fede. Altre cose? La cosa più romantica che abbiamo scritto su questa lista è: vado al ristorante, ok? O faccio qualcosa che mi piace molto, ok? E la seconda volta che la faccio con qualche persona a cui tengo. Cioè, non vedo l'ora di rifare questa cosa per condividere con questa persona questa esperienza fantastica. Bello. Gli amici, la famiglia, i fidanzati. Bello. Non è farina del mio sacco, però questa, quindi okay. L'avevate scritta a voi. L'ho scritta io. Okay. Brava Marzia, bellissima. Quindi sì, pensate anche a questo tipo di seconda volta, cioè è una seconda volta per noi, ma che ha un valore importantissimo perché porti qualcuno alla loro prima volta. Alla esatto, prima quello volta. Che lei mi aveva triggerato in questa cosa, che mi ricordo che era venuta da Marzi, era tipo riguardo un film che mi è piaciuto tantissimo, lo riguardo la seconda volta con qualcuno a cui voglio far vivere quella stessa esperienza. Esatto, bello. Dovreste bello. Vedere i sorrisini e gli sguardi innamorati di queste due ragazze che condividono con me la storia. Si guardano negli occhi e fanno sì sì, bello, sì, bello. Sei troppo intelligente, Marzia. Ma hai tagliato la cipolla? No, mi è entrato un moscerino. Esatto. Che sfigate. Esatto. E tocca a me, quindi. Tocca a te, tocca a te. Allora io vado, mi aggancio alla tua. Vai, agganciati. Mi aggancio alla tua e vado nel ristorante. Vai nel ristorante. Entro nel ristorante, il ristorante che ho già provato, diciamo, sì, io ho già provato, quindi sì. Ho già assaggiato dei piatti. Parto dal presupposto che mi sia piaciuto, per cui ci ritorno. E qui il grande dilemma, nel senso, ricasco sul conosciuto, quindi prendo quello che avevo preso la volta prima e rivivo questa seconda volta in toto, oppure la cambio, le do il twist scegliendo qualcosa di diverso. Il mondo qua si divide in due, secondo me, due parti. Sì. Fateci sapere qual è la vostra parte. Io forse... Allora, io entro un po' in quel momento di... Sì, di disbattimento da cazzo, devo provare qualcosa di nuovo. Io anche io provo. Io mi sa che mangio la stessa cosa. No, tipo io abbiamo un posto dove andiamo vicino all'ufficio a mangiare, io devo provare tutte le piadine adesso, questa è la mia missione. Ma make sense. Io invece prendo sempre la stessa piadina. Okay. Quella qui è proprio dividiamo i mondi in due. Okay, in due. E allora adesso vorrei fare una domanda ai nostri ascoltatori. Sì? Ma il secondo figlio invece com'è? Io... Madri e padri. Ultimo wannabe, secondi fratelli. Io posso dire solo del secondo fratello. Che però sei il primo. No, dico come penso che sia il secondo fratello. Che tra l'altro è come penso che sia il secondo figlio per i miei genitori anche. Pazzesco, ok. E tutta una serie di secondi. E niente, io sono abbastanza convinto che il primo figlio sia il migliore. Ma chissà come mai. Chissà come mai. Sono abbastanza convinto. Però vi racconterò un aneddoto divertentissimo. Quando ero in Cina a studiare, facevamo dei corsi obbligatori che il governo e l'università ci obbligava a fare. Uno di questi era cultura cinese. A una lezione, una volta un ragazzo della nostra età disse una cosa inquietante, che diciamo spiegava appieno la follia che stava dietro alla One Child Policy in Cina. Questo ragazzo serio in classe davanti a noi disse che lui era assolutamente convinto del fatto che fosse giusto che le persone dovessero avere un solo figlio, perché almeno le qualità positive dei genitori sarebbero potute splittare su di lui completamente e non dividere e disperdersi tra la prole. E questa cosa mi aveva fatto molto pensare. In effetti mia sorella ha tutti i difetti, i miei genitori. No, ma e poi c'è sempre un po' questa faida tra il primo e il secondo. Tu sei là? Prima. Il primo c'ha sempre un po' al dente, eh? Una super partes, perché io sono prima. Sei prima e prima è unica e ultima. E ultima. Sì, alfa e omega dei rotelli. Io sono esattamente l'incarnazione di quella roba lì che diceva. Esatto, il cinese. Il cinese. Il cinese pazzo. Va bene, ultimissimo tema. Ma raga, ma quanto è bella la pausa tra primo e secondo tempo per andare a prendere i popcorn. Anche a me piace tantissimo. Eppure ce ne... L'hanno un po' segata, Adesso la levano in alcuni casi, non la fanno. In altri casi l'hanno un po' reintrodotta. Sì, esatto. Cioè, in realtà è bello perché vai a prendere i popcorn. Sì. Però, in effetti, è comunque un po' sbatti. Sì, però a me piace quel momento di, adesso chissà cosa succederà. Me lo ricordo molto bene con Harry Potter, queste robe qua. Mm. Che c'era, che andavo con le mie amiche, quindi c'era anche un po' il momento tipo, guarda intorno, chi c'è... Sì. Ma quello lì è quello. Ma quello ma il giova quello. Della seconda B. Ma lui è uscito con Clara, tipo, non so. Sì, giova della seconda B usciva sempre con Clara. Sempre con Clara. Un delinquentello, guarda. Esatto. Quante con fidanzate ne hai rubato, giova di seconda B? Dimmelo. Esatto. Quante me ne hai rubate, maledetto. Beh, ancora una volta vi invitiamo a scriverci anche nel vostro random pensiero sulla seconda volta, se vi viene in mente qualcosa che noi non abbiamo detto, perché comunque diciamo non siamo infallibili. Yes. Anche se sembra che... E in attesa dei vostri messaggi, esatto, vi lasciamo al prossimo pezzo, che secondo me questo è un esempio di quelli del primo album era figo, il secondo ancora di più. E difatti andiamo ad ascoltarci Cosso Trieste dei Cani sul loro album Glamour, che era il secondo album, e buon ascolto. Il king dello sfumo. Ma beh, la nostalgia dei cani comunque è sempre più presente. Esatto. Tra l'altro, speaking about cani, per dire che Fede non solo seleziona per la musica, ma anche forse per la vita che loro vivono. Assolutamente. I cani guidati da Niccolò Contessa, che tutti conosciamo, salutiamo. Da Niccolò Contessa. Ecco, Contessa mi è diventato padre per la seconda volta quest'estate, diciamo. Non vedo l'ora di sentire un bel album con un po' di pera. Mi sa che non sei l'unica. No, mi sa anche a me, ma c'è Fede che refresha il sito di Niccolò. Caro, se ci stai ascoltando, noi stiamo aspettando il quarto album in studio di I Cani, quindi esatto. Per piacere, datti una mossa. Adesso che ti sei tolto il secondo, che l'abbiamo fatto, il primo l'hai fatto, il secondo l'abbiamo fatto, che due sono sempre meglio di uno. Adesso tocca tornare su di te. Continua a produrre, che sei bravo, ma facci sentire anche cose. Dai, sì, che c'è canticchiate manghi. Da te. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Abbiamo finito questa prima puntata della seconda stagione di Fuori dal Comune, qui da Radio ZAM / Radio ZAM Milano Sud. Vi salutiamo. E niente, Ci sentiamo molto presto. Voi continuate a seguirci. Noi in teoria dovremmo sentirci ogni due settimane. però come capiamo, sapete non capiamo. Siamo bravissimi a mantenere né le aspettative né le deadline né le date né le date, quindi probabilmente ci sentiamo tra due settimane, se o così forse, non fosse ci sentiamo prima o dopo potrebbe anche essere lunedì prossimo. Voi state lì attenti con l'Instagram aperto, col pollicino quasi in cancrena per il vostro scrolling continuo, pam pam pam. E con questa vi salutiamo. Ovviamente se adesso chiudete e nella vostra camomilla dopo cena vi viene in mente: ah, ma volevo fare quella cosa, ah, volevo dire quell'altra, ah, ma il sindaco, ah, ma la seconda volta, scriveteci, ci fa piacere, su Instagrams. Instagrams. Ok, vi lasciamo con un pezzo un po', cioè che forse adesso vi conviene un po' spegnere, cioè cosa? Sapete che io ho sempre questo immaginario dei nostri ascoltatori romantico. Ah, che sfornano la pizza e bevono Vino un po' con questa atmosfera, candele, luci soffuse. Ah, è proprio da candele e luci soffuse e da quell'ultimo bicchiere di vino prima di andare a dormire con un panino, la felicità. Beh, bello, che bella chiusa. Ciao ragazzi. Ciao. Buonanotte, buona serata. Vi lasciamo con 7:40 di Battisti. Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta e via. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. La chiave ricorda che è sempre lì, lì sulla finestra. E nel far le valigie ricordati di non scordare qualche cosa di tuo che a te poi mi faccia pensare. E ora basta non stare più qui, ti rendi conto anche tu, che noi soffriamo di più ogni istante che passa di più. No, non piangere, presto presto, presto presto, presto presto, vai. Da un minuto sei partita e sono solo. Sono strano e non capisco cosa c'è sui miei occhi. Da un minuto è sceso un velo. Forse è solo suggestione. Ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te. Mi sono informato, c'è un volo che parte alle 8:50. Non ho molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta e mi bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. La chiave l'hai messa senz'altro lì, lì sulla finestra. E nel far le valigie stavolta non devo scordare di mettere un fiore che adesso ti voglio comprare. Con l'aereo in un'ora son lì e poi di corsa un taxi. Sono certo così quando arrivi col treno.